sei visto, eh? No, no, anche tu lo stesso, a volte si mette questo in mezzo e via, no, e a volte copre anche a te. È questione di coso, di propagazione più che altro. Sì, sì. E l'altro, vabbè, l'altro era quella normale, è 3375, no? Te la ricordi? Su quella lì e ogni tanto sento non è che si senta bene, non è che si senta bene perché sono disturbati, sono anche, però già si ascolta. Va bene Pina, io scappo, chiudo perché devo uscire anch'io. Mi ha fatto piacere sentirti, io non so se ti lascio in compagnia, se c'è altra gente sul 10. Ti saluto e passo in QRT, ma ci sentiamo alle prossime. Ciao Pina, comunque se ti sento la ti chiamo, va. No, già accetto, ciao Sabato, fatti sentire anche tu, io l'ho lascio acceso la mattina e anche la sera qua sul 10, già vi faccio sentire, quello ogni tanto vado e giro dalle altre parti. Ciao, a risentirci Sabato. Ciao Pina, senz'altro, ci sentiamo senz'altro, ciao ciao. Niente, io ti lancio il mic, però fai chiamata se c'è qualche altro, se no non lo so, perché lo so che Roberto mi ha chiuso, Luigi si è spostato e Luca lo stesso. Comunque fai chiamata tu Pina, io passo in quarantena, ciao di nuovo Pina.